Saluto. Ignazio Teoforo, alla Chiesa di Magnesia, vicino al Meandro, benedetta nella grazia di Dio Padre in Gesù Cristo nostro Salvatore, il mio saluto e l'augurio di grande gioia in Dio Padre e in Gesù Cristo. Unione col Cristo. Avendo conosciuto la disciplina della vostra carità verso Dio, pieno di gioia ho pensato di parlarvi della fede di Gesù Cristo. Onorato di un nome, di uno splendore divino, in queste catene che porto, canto alle chiese ed auguro loro l'unione nella carne e nello spirito di Gesù Cristo, nostra eterna vita, della fede e della carità a cui nulla è da preferire, e ciò che è più importante, l'unione con Gesù e il Padre. Se rimaniamo in questa ed evitiamo ogni assalto del principe di questo mondo, raggiungeremo Dio. Ho avuto l'onore di vedervi in Dama, vostro vescovo degno di Dio, nei degni presbiteri Basso ed Apollonio e nel diacono Zootione mio conservo, della cui presenza mi auguro sempre di gioire. Egli è sottomesso al vescovo come alla grazia di Dio e al presbitero come alla legge di Gesù Cristo. Sottomissione al vescovo. Conviene che voi non abusiate dell'età del vescovo, ma per la potenza di Dio Padre gli tributiate ogni riverenza. In realtà ho saputo che i vostri santi presbiteri non hanno abusato della giovinezza evidente di lui, ma saggi in Dio sono sottomessi a lui, non a lui ma al Padre di Gesù Cristo, che è il vescovo di tutti. Per il rispetto di chi ci ha voluto bisogna obbedire senza ipocrisia alcuna, poiché non si inganna il vescovo visibile, bensì si mentisce a quello invisibile. Non si parla della carne, ma di Dio che conosce le cose invisibili. Bisogna non solo chiamarsi cristiani, ma esserlo. Alcuni parlano sempre del vescovo, ma poi agiscono senza di lui. Questi non sembrano essere onesti, perché si riuniscono non validamente contro il precetto. Le due monete. Poiché le cose hanno una fine e due cose ci sono davanti, la morte e la vita, ciascuno dovrà andare al suo posto. Ci sono come due monete, una di Dio e l'altra del mondo, ed ognuna di esse ha la sua impronta coniata. Gli infedeli quella di questo mondo, i fedeli nella carità quella di Dio Padre per Gesù Cristo. Se non avessimo a morire spontaneamente per Lui nella sua passione, la sua vita non sarebbe in noi. La concordia. Poiché nelle persone nominate sopra ho visto e amato tutta la comunità, vi prego di essere solleciti a compiere ogni cosa nella concordia di Dio e dei presbiteri, con la guida del vescovo al posto di Dio e dei presbiteri al posto del collegio apostolico e dei diaconi a me carissimi che svolgono il servizio di Gesù Cristo, che prima dei secoli era presso il Padre e alla fine si è rivelato. Tutti, avendo un'eguale condotta, rispettatevi l'un l'altro. Nessuno guardi il prossimo secondo la carne, ma in Gesù Cristo amatevi sempre a vicenda. Nulla sia tra voi che vi possa dividere, ma unitevi al vescovo e ai capi nel segno e nella dimostrazione della incorruttibilità. Unico Tempio di Dio. Come il Signore nulla fece senza il Padre, col quale è uno, né da solo né con gli apostoli, così voi nulla fate senza il vescovo e i presbiteri, né cercate che appaia lodevole qualche cosa per parte vostra, ma solo per la cosa stessa. Una sola preghiera, una sola supplica, una sola mente, una sola speranza nella carità, nella gioia purissima che è Gesù Cristo, del quale nulla è meglio. Accorrete tutti come all'unico Tempio di Dio, intorno all'unico altare che è l'unico Gesù Cristo, che procedendo dall'unico Padre è ritornato a Lui unito. Abbiamo ricevuto la grazia. Non fatevi ingannare da dottrine eterodosse né da antiche favole che sono inutili. Se viviamo ancora secondo la legge, ammettiamo di non aver ricevuto la grazia. I santi profeti vissero secondo Gesù Cristo. Per questo furono perseguitati, poiché erano ispirati dalla sua grazia a rendere convinti gli increduli che c'è un solo Dio, che si è manifestato per mezzo di Gesù Cristo suo Figlio, che è il suo Verbo uscito dal silenzio e che in ogni cosa è stato di compiacimento a Lui che lo ha mandato. Vivere secondo la domenica. Dunque, quelli che erano per le antiche cose sono arrivati alla nuova speranza e non osservano più il sabato, ma vivono secondo la domenica in cui è sorta la nostra vita per mezzo di lui e della sua morte che alcuni negano. Mistero dal quale invece abbiamo avuto la fede nel quale perseveriamo per essere discepoli di Gesù Cristo, il solo nostro Maestro. Come noi possiamo vivere senza di lui, se anche i profeti, quali discepoli nello Spirito, lo aspettavano come Maestro? Per questo, quello che attendevamo giustamente, venendo, li risuscitò dai morti. Il nuovo lievito. Avvertiamo la sua bontà. Se egli ci imitasse come noi agiamo, non ci saremmo più. Perciò, divenuti suoi discepoli, abbracciamo la vita secondo il cristianesimo. Chi è chiamato con un nome diverso da questo non è di Dio. Gettate via il cattivo fermento, vecchio ed acido, e trasformatevi in un lievito nuovo che è Gesù Cristo. In lui prendete il sale, perché nessuno di voi si corrompa, in quanto dall'odore sarete giudicati. È stolto parlare di Gesù Cristo e continuare nel giudaismo. Non il cristianesimo ha creduto nel giudaismo, ma il giudaismo nel cristianesimo, in cui si è riunita ogni lingua che crede in Dio. Convinzione piena nel Cristo. Questo, carissimi, non perché abbia saputo che alcuni tra voi si comportano in tal modo, ma pur a voi inferiore voglio mettervi in guardia di non abboccare all'amo della vanità, ma di essere convinti della nascita, della passione e della resurrezione avvenuta sotto il governo di Ponzio Pilato. Ciò è stato compiuto veramente e sicuramente da Gesù Cristo, nostra speranza, dalla quale nessuno si allontani. Il giusto accusatore di se stesso. Possa io gioire di voi in ogni cosa, se ne sono degno. Benché incatenato, non sono più uno di voi che siete liberi. So che non vi gonfiate e avete in voi Gesù Cristo. Piuttosto, quando io vi lodo, so che arrossite, come è scritto, il giusto è accusatore di se stesso. Saldi nei precetti del Signore e degli Apostoli. Cercate di tenervi ben saldi nei precetti del Signore e degli Apostoli, perché vi riesca bene tutto quanto fate nella carne e nello Spirito, nella fede e nella carità, nel Figlio, nel Padre e nello Spirito, al principio e alla fine, con il vostro Vescovo, che è tanto degno, e con la preziosa corona spirituale dei vostri presbiteri, dei diaconi secondo Dio. Siate sottomessi al Vescovo e gli uni agli altri, come Gesù Cristo al Padre nella carne e gli Apostoli a Cristo e al Padre e allo Spirito, affinché l'unione sia carnale e spirituale. Congedo. Sapendo che siete pieni di Dio, vi ho esortato con brevità. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere perché possa raggiungere Dio e della Chiesa che è in Siria, della quale non sono degno di portare il nome. Ho bisogno della vostra preghiera unita in Dio e della carità affinché la Chiesa di Siria, per intercessione della vostra Chiesa, sia aspersa di grazia. Vi salutano gli Efesini, da Smirne, donde io vi saluto. Sono venuti per la gloria di Dio, come anche voi, e mi hanno prodigato ogni cosa con Policarpo, il Vescovo e gli Smirnesi. Vi salutano anche le altre Chiese nella gloria di Gesù Cristo. State bene nella concordia di Dio, possedendo lo spirito inseparabile che è Gesù Cristo.